TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Gli strumenti scientifici usati per pianificare le opere di contenimento del tagliamento vanno rivisti a causa dei cambiamenti climatici, così il professor Rinaldo, massimo esperto in materia, al Consiglio regionale. Per effetto della guerra all'Iran aumenta il prezzo dei carburanti e molti tornano oltre confine per fare rifornimento. Nei distributori sloveni non c'è la fila, ma le targhe sono quasi tutte straniere. Guerra in Medio Oriente, a Buongiorno Regione l'analisi di Federico Donelli, docente di relazioni internazionali a Trieste, sui reali obiettivi del conflitto e sui rischi di un allargamento ad altri paesi. Presentato ieri sera agli abitanti di Pozzecco di Bertiolo il progetto per la costruzione di un allevamento di oltre 1 milione di polli l'anno, la preoccupazione dei cittadini per gli effetti dell'impianto sul territorio. Inaugurati a Udine i 76 nuovi alloggi di edilizia popolare e a canone calmierato ricavati nella ex caserma Osoppo. Il complesso include servizi sociali, aree verdi e impianti sportivi. 20 anni fa moriva Varmo, il suo paese, lo scrittore friulano Elio Bartolini. Fu anche poeta e sceneggiatore di 3 film di Antonioni. A Udine oggi un convegno dedicato alla sua figura e alla sua opera. Le 12.31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Maria Spezia. La 4a Commissione del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia sta discutendo della messa in sicurezza del fiume Tagliamento con audizioni tecniche previste per analizzare i rischi. Oggi viene sentito il professor Andrea Rinaldo dell'Università di Padova, autore di ricerche pionieristiche sulle reti fluviali e sulla modellazione dei flussi. Sentiamo. I parametri per le nuove opere pensate per la sicurezza idraulica del Tagliamento oggi si basano ancora su dati storici, in particolare sull'alluvione del 1966, che secondo Rinaldo non sono più cautelativi. Anche l'ipotesi di un aumento del 20% delle portate di piena andrebbe aggiornata, perché la macchina che produce le piene è cambiata, lo dice Rinaldo, soprattutto in bacini molto piovosi come quello del Tagliamento. Fuori dal Consiglio regionale il presidio dell'associazione Alluvione Tagliamento, che accusa le istituzioni di non aver ancora realizzato le opere di regimazione delle piene studiate negli ultimi decenni. Il presidente del comitato, Giorgio Matassi. Per noi sarà l'ultima volta, se non andiamo avanti su una nuova progettazione che sia concreta e risolutiva, evidentemente percorreremo altre strade. Opposta alla posizione del Comitato Insieme per il Tagliamento, che chiede un approccio più conservativo, Franca Pradetto, presidente Associazione Insieme per il Tagliamento. Noi come associazione vogliamo proporre una soluzione che rispetti sicuramente la sicurezza delle persone, ma altrettanto che mantenga la naturalità del fiume. Tra la maggioranza, la consigliera Spagnolo della Lega sollecita invece una soluzione rapida. Una relazione che non porta a concretezza, a qualcosa di veloce per la messa in sicurezza come abbiamo bisogno, perché l'urgenza è davanti agli occhi di tutti con quello che sta succedendo dappertutto. Più critico in merito all'ipotesi del progetto, Furio Onset, gruppo misto. A un certo punto di vista ha detto delle cose che io condivido completamente, ma ha lasciato però assolutamente sospeso il tema, e quindi io mi domando quale sia la tesi. L'impressione è che non ci sia da parte dell'assessorato una vera progettualità, e mi sembra che questa relazione dimostri che sono veramente in alto mare. Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il prezzo del petrolio continua a preoccupare i mercati per l'escalation in Medio Oriente e la possibile chiusura dello stretto di Hormuz. I riflessi si vedono già guardando i listini dei distributori di benzina, ad aumentare soprattutto il diesel, che l'oltre confine costa meno. Siamo andati a vedere se aumentano il numero di automobilisti che fa rifornimento in Slovenia. Non si può parlare di coda ai confini a metà mattina di un giorno feriale, ma di vivace movimento sicuramente, sia i distributori di Sesana, appena oltre confine praticamente solo targhe italiane, spesso i conducenti arrivano proprio dalla vicina Trieste, quasi tutti hanno anche la tessera regionale per lo sconto, ma dicono conviene comunque qui. Il governo di Lubiana ha tagliato le accise e ha limitato a 6 centesimi l'aumento del diesel nell'aggiornamento di prezzo bisettimanale. Fino al 23 marzo il gasolio in Slovenia costerà 1,5 e 28. 28. In sostanza, il diesel sloveno è più economico di oltre 50 centesimi rispetto a quello del Friuli Venezia Giulia. Infatti, a Sesana vediamo mezzi pesanti fare il giro dei distributori perché alcuni hanno esaurito il diesel, tanto è stato l'incremento di clienti. Un'autocisterna carica di gasolio è arrivata proprio mentre facevamo le riprese. Nonostante il calo delle quotazioni del greggio a partire da lunedì mattina, proseguono però i rincari in Friuli Venezia Giulia. Il gasolio, per esempio, in uno dei distributori italiani più vicini al confine, costa anche 2,89, mentre la benzina ha raggiunto 1,89. A Prosecco, su una pompa bianca, i cartelli indicano con chiarezza lo sconto grazie alla tessera regionale, però i clienti scarseggiano. In 19 anni d'attività, ha detto il titolare Marino Cossuta, mai visto un rincaro simile. Infatti, se ogni giorno vendeva dai 10 ai 14 mila litri, ora quasi la metà. Da sabato scorso, dice, abbiamo visto un calo consistente di clienti, ma non siamo noi ad aver speculato. Il problema è stato a monte, il prezzo del carburante è cresciuto immediatamente con lo scoppio della guerra. Non ci sono scorte stoccate qui, spiega, acquistiamo anche noi ogni due giorni, a nostra volta il greggio. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. E della guerra in Medio Oriente abbiamo parlato questa mattina nella nostra trasmissione Buongiorno Regione con Federico Donelli, docente di relazioni internazionali all'Università di Trieste. Ancora missili, ancora droni armati nei cieli dei paesi del Golfo, anche nelle ultime ore pesanti bombardamenti israelo-americani su Teheran, cui l'Iran ha risposto colpendo obiettivi e installazioni militari nemiche nell'area. Ma quali sono i reali obiettivi di Tel Aviv e Washington? Risponde Federico Donelli, docente di relazioni internazionali all'Università di Trieste. Dal punto di vista israeliano l'obiettivo è chiaro, cioè neutralizzare tutto quelli che considera nemici o minacce esistenziali, su tutti l'Iran, ma anche quelle che sono le ramificazioni del potere iraniano, come per esempio gli Hezbollah in Libano. Dal punto di vista invece politico degli Stati Uniti c'è un po' più di dubbio, nel senso che inizialmente l'idea era quella di indebolire un regime seguendo una strategia trumpiana, cioè di porre l'intermediario in una posizione di debolezza per poi trattare. Adesso invece sta spingendo verso un cambio di regime radicale. C'è, diciamo, un obiettivo politico ulteriore rispetto a quello di giugno, che invece era semplicemente minare il programma nucleare iraniano. C'è il rischio di un ulteriore allargamento del conflitto con un coinvolgimento diretto dell'Italia? Un coinvolgimento diretto delle forze armate italiane è molto difficile che avvenga. Detto questo, quello che sta succedendo è che si stanno scattando degli allarmi in chiave difensiva, tanto è vero che non solo l'Italia ma altri paesi europei e membri della NATO hanno inviato e mobilitato alcune risorse militari su Cipro più che altro. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli, Venezia Giulia. È stato presentato ieri sera agli abitanti di Pozzecco di Bertiolo il progetto per la costruzione di un allevamento da oltre 1 milione di polli all'anno. La preoccupazione dei cittadini per gli effetti dell'impianto sul territorio. Un allevamento intensivo di polli, 850.000 all'anno, sorgerebbe a Pozzecco di Bertiolo, nella campagna del Medio Friuli. L'impatto ambientale coinvolgerebbe altri due centri abitati, Flambro, nel comune di Talmassons, e Galleriano, nel comune di Lestizza, in tutto circa 1.700 abitanti. A Pozzecco, dove le case sono più vicine, 450 abitanti circa, c'è preoccupazione. L'imprenditore ha presentato il progetto nel corso di un'assemblea pubblica molto partecipata. Due capannoni di oltre 18.000 metri quadrati per una produzione di 175.000 polli in 5 cicli. I timori riguardano naturalmente le emissioni di odori. Il comitato Terra Viva rappresenta i cittadini che non vorrebbero questo impianto. Ora il progetto è all'esame della valutazione ambientale, la VAS. Sarà poi della Regione, con la conferenza dei servizi, il parere definitivo. La legge prevede la costruzione di questo tipo di impianti e quanto spiega la sindaca di Bertiolo, Eleonora Biscardis, che sottolinea che si tratta di qualcosa che non fa piacere a nessuno, ma, prosegue, quello che si può fare è, in caso di via libera, ottenere i compensativi ambientali per tutelare il territorio dall'impatto dell'allevamento. E poi, conclude, si tratterebbe di un impianto di nuova generazione con i parametri di sostenibilità previsti, oltre ai continui monitoraggi di ARPA e azienda sanitaria. La preoccupazione però degli abitanti della zona rimane. Bertiolo, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. La pagina del tempo, il cielo è da nuvoloso a coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, Trieste e Udine 12 gradi, Pordenone 13, Gorizia 11,5, Tolmezzo 11, Forni di Sopra 7, Tarvisio 9, Sappada 5,5, Monte Zoncolan e Monte Lussari 1 grado, grado 13, Lignano 14. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per le prossime ore: si attendono piogge più probabili, deboli, che poi diventeranno moderate, localmente forse anche abbondanti, possibili rovesci temporaleschi, nevicate oltre 1400-1600 metri di quota, possibili foschie o nebbie in pianura e costa, specie nelle ore notturne. Per domani nella notte e nella prima parte della mattinata possibili piogge residue, in genere deboli, specie sulla fascia orientale, e deboli nevicate oltre 1400-1600 metri. In giornata il cielo probabilmente rimarrà in prevalenza nuvoloso, ma con bassa probabilità di locali piogge, possibili foschie o nebbie su bassa pianura e costa nelle ore notturne. Secondo gli ultimi dati Istat, il Friuli Venezia Giulia, insieme alla Toscana, è tra le regioni italiane che hanno visto crescere di più le esportazioni nel 2025. L'incremento in Toscana è stato del 21% da un anno all'altro, quello di questa regione è stato di quasi il 18%, con una media del nord-est Italia nel suo complesso che non va oltre il 2%. Un dato, quello regionale, fortemente influenzato dalle navi costruite per armatori stranieri negli stabilimenti Fincantieri di Monfalcone. E a proposito di Monfalcone, la consigliera regionale dei 5 Stelle, Rosaria Capozzi, è intervenuta questa mattina per stigmatizzare quanto scritto dall'ex sindaca e ora parlamentare europea Anna Maria Cisint all'interno del materiale di presentazione del Festival Geografie. Vengono riportate, ha scritto Capozzi in una nota, posizioni fortemente critiche nei confronti dell'Islam, tra queste anche l'affermazione secondo cui i musulmani stanno avendo sempre più spazio nel nostro paese, minacciando la sicurezza. Si tratta di parole molto gravi perché alimentano paura e diffidenza, rappresentando al tempo stesso, ha aggiunto Capozzi, anche una pericolosa generalizzazione offensiva nei confronti di migliaia di persone di fede musulmana che vivono, lavorano e contribuiscono ogni giorno alla vita delle nostre comunità in condizioni di piena integrazione, ha concluso Capozzi. E proseguiamo con la cronaca. La polizia di Stato di Gorizia ha arrestato un 38enne sloveno residente in città per violazione della normativa sugli stupefacenti. Le indagini sono state avviate a inizio mese in seguito a controlli eseguito in un cortile di via Manzoni che avevano fatto emergere la presenza di 50 grammi di eroina a fronte di un visibile nervosismo dimostrato dall'uomo. Una successiva verifica nella sua abitazione ha poi portato al ritrovamento di 4 grammi di marijuana. Gli stupefacenti sono stati sequestrati e l'uomo è stato arrestato. Al momento si trova nel carcere di Gorizia. È stata inaugurata questa mattina la riqualificazione dell'ex caserma Osoppo di Udine. Nel complesso sono stati ricavati 76 nuovi alloggi di edilizia popolare. Continua il cammino di trasformazione dell'area dell'ex caserma Osoppo a Udine. Oggi si sono aggiunti 76 nuovi alloggi sociali, appartamenti realizzati dal fondo Housing Sociale FVG gestito da Finint Investments. All'inaugurazione la presenta anche il sindaco di Udine, De Toni, e l'assessore comunale alla pianificazione territoriale, Zini. Le nuove case sono state realizzate seguendo i criteri di efficienza energetica e di sostenibilità ambientale. Sono di classe A3 e vantano un impianto fotovoltaico di copertura. 20 di queste sono dotate di una camera, 42 di due camere e 14 di tre camere. Le finiture sono di livello paragonabile alle nuove costruzioni sul mercato. Si tratta di una parte del più ampio progetto definito Experimental City, che prevede la nascita proprio nell'ex caserma Osoppo di un nuovo quartiere urbano che integra servizi abitativi, scolastici, verde pubblico e alloggi popolari. Sorge su 11 ettari di area dismessa e, come dichiarato dall'assessore Zini, costituisce uno dei principali interventi di rigenerazione urbana degli ultimi anni. Oltre agli alloggi sono già pronti anche gli impianti sportivi e lì vicino sorgerà anche un parco urbano. Il bando per le case uscito oggi prevede sia l'acquisto a prezzi convenzionati sia l'affitto con facoltà di riscatto previsto per 61 alloggi. I canoni partono da 425 euro al mese, mentre il prezzo di quelli in vendita partono da 180.000 euro. Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Si inizierà dalle opere in prosa, in versi per il cinema, per approfondire poi i testi dello scrittore friulano Elio Bartolini nel ventennale della sua scomparsa, nel convegno organizzato dall'Università di Udine intitolato Ritornare a Elio Bartolini, poesia, narrativa, sceneggiature. Appuntamento a Palazzo Florio alle 15 tra i relatori Gabriele Zanello, direttore del Centro Interdipartimentale per lo sviluppo della lingua e della cultura del Friuli CIRF, a cui abbiamo chiesto una presentazione della figura di Bartolini. Bartolini è stato una delle figure più importanti del panorama letterario non soltanto del Friuli ma anche dell'Italia del Novecento, perché la sua presenza si è intrecciata con tutta una serie di tensioni ideologiche, di trasformazioni storiche, culturali, sia dell'Italia appunto Friuli, e questo intreccio poi si è configurato nella sua opera in una ricerca sempre molto sincera, a volte inquieta, la ricerca di senso nella narrazione e anche nella lingua. Quindi le opere che lui ha scritto sia in lingua italiana che in lingua friulana riflettono questa situazione. Le opere di Bartolini riflettono naturalmente la società del tempo che lui ha vissuto, tutte le trasformazioni del Friuli dall'epoca delle guerre fino poi al boom economico. Ricordiamo che Bartolini è mancato esattamente 20 anni fa, infatti questo convegno vuole ricordare i 20 anni dalla sua scomparsa, e quindi un arco ampio nel quale veramente lui ha saputo guardare con occhio attento alle trasformazioni della società, in particolare di quella friulana. Qual è l'opera sua più significativa? È difficile dirlo, anche perché Bartolini ha lavorato sia nell'ambito della narrativa che quello della poesia, che quello poi delle sceneggiature per grandi registi come per esempio Antonioni. Io spezzo una lancia a favore della poesia friulana, che è meno conosciuta, che si colloca in quel periodo all'indomani del terremoto, in cui molti autori hanno voluto, proprio a causa del sisma, riappropriarsi della lingua e attraverso la lingua riappropriarsi anche della cultura friulana, di una società che in qualche modo stava sparendo. Nel caso di Bartolini vediamo che c'è una sorta di disincanto e di sguardo molto problematico nei confronti del Friuli che è stato, del Friuli che si stava configurando. È appena tornata da una missione nel Gibuti, la sua quarta, con un centro toscano che studia gli squali, è Gaia Peracca, che è un'istruttrice di mermaiding, una disciplina acquatica che unisce nuoto, pinnato, apnea e danza, ma nella vita di tutti i giorni è un'impiegata delle assicurazioni. Ne abbiamo parlato a Buongiorno Regione. A Gibuti è stata un'esperienza incredibile, con appunto il Centro Studi Squali, l'unico istituto riconosciuto in Italia dedicato esclusivamente allo studio degli squali. Come sono entrata a farne parte? Beh, diciamo che la passione per il mare, per gli animali marini c'è sempre stata. Dal 2022 ho avuto la fortuna di entrare in contatto con il Centro Studi Squali, che organizza missioni in cui possono partecipare non solo studenti e ricercatori, ma anche persone come me, che mi considero un'appassionata, ma non purtroppo una ricercatrice o una persona del campo. L'obiettivo di questa missione, il suo lavoro, il suo contributo in questa missione? Allora, l'obiettivo di queste missioni è proprio quella di monitorare gli squali in maniera non invasiva, quindi con la foto identificazione e non tramite tag o altri sensori che possono essere comunque più invasivi, mapparli, quindi vedere quanti ce ne sono e monitorare da un anno all'altro se il numero c'è, aumenta, diminuisce e se ci sono anche dei riavvistamenti. Altre esperienze subacquee, incontri subacquei interessanti? Io ho visto anche con loro lo squalo tigre alle Maldive, e tra gli animali che mi emozionano sempre di più c'è la manta, perché mi dà proprio l'idea di immensità e di quanto alla fine madre natura possa fare veramente delle opere d'arte. Lei è anche insegnante di mermaiding, cioè il nuoto con la monopinna come le sirene, insegna soprattutto ai bambini, insegna nuoto, insegna apnea, ma insegna soprattutto il rispetto per il mare. Un bambino o una bambina che impara a conoscere il mare sarà, speriamo, un adulto che lo rispetterà. Ci avviciniamo all'estate. Dovremmo aver paura degli squali allora? Allora, ci avviciniamo all'estate e no, assolutamente no, anzi se sentiremo quest'estate che c'è una verdesca in golfo possiamo solo che dire ah che bello, che fortunati che siamo. Se sentiamo poi dello squalo volpe come l'anno scorso, allora lì veramente dobbiamo stappare bottiglie di champagne e fare un brindisi. La presenza di squali in golfo è un ottimo segnale di biodiversità, quindi vuol dire di tante specie diverse presenti nel golfo, ed un segnale che il nostro mare è sano. Eva Ciuc, TGR Friuli Venezia Giulia.